Ben ritrovate, ritrovati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Quest'estate sono abbastanza fedele, nonostante il caldo estivo. Sono già 2 settimane che azzecco la puntata preciso il lunedì. Non faccio attendere i miei sparuti ascoltatori. E quest'oggi volevo riprendere tra le varie notizie, infatti non sembra un'estate di riposo per le questioni del hacking e varie. E volevo riprendere appunto una cosa, un argomento che si era trattato un paio di puntate fa, era infatti uscito e ne avevamo dedicato almeno un pezzo di una puntata, mi sembra 2 puntate fa, su un bug di GPG, che in particolare interessava appunto il protocollo OpenPGP, che è quello che delinea come deve avvenire la cifratura dell'email, un bug che diciamo interessava diversi client anche molto, molto utilizzati, tipo Enigmail. Ecco, di nuovo si torna a parlare di un nuovo problema. L'altro era un problema che permetteva, utilizzando dei trucchi, degli stratagemmi, di leggere un testo cifrato, diciamo, e no, senza, diciamo, proprio un testo cifrato. Questo invece va a impattare su un'altra funzionalità di questi software, che è la firma, la signature. Ne avete sentito parlare perché negli ultimi anni si è parlato spesso di firma elettronica. Ebbene, questo nuovo bug, scoperto da un ricercatore, permette di fare quello che viene detto spoofing, cioè per spoofing si intende sostanzialmente quando io modifico di solito l'origine o il destinatario di una comunicazione. Insomma, quando io cambio le carte in tavola e faccio apparire una cosa per quella che non è, per un'altra. E infatti il bug è stato denominato dallo scopritore SIGSpoof. Cioè signature spoof. Il termine spoofing è un termine generico, si utilizza, insomma, così ne approfitto anche per fare un po' di vocabolario di questo gergo tecnico assurdo, e si utilizza appunto per varie si utilizza spesso in questi contesti, e in questo caso specifico appunto permette di sostituire o inventare una firma, nel senso che nei vari esempi che sono riportati su un blog che poi vi linko nel podcast di questo ricercatore, fa vedere come sia possibile aggiungere una firma a un messaggio non firmato, o anche sostituire una firma di un messaggio già firmato. Almeno così ho capito, mi sembra di aver capito. E questo bug sostanzialmente affonda di nuovo in alcune feature un po' sconosciute del protocollo, che in quanto sconosciute e poco utilizzate, sostanzialmente la maggior parte dei client tende ad ignorare per semplicità, cioè si tende a gestire il protocollo non nella sua, diciamo, interezza, ma a gestirlo nelle cose che di solito accadono nell'utilizzo comune. Ecco, allora che andando invece a pacioccare con queste cose, questo ricercatore ha dimostrato come sia possibile appunto sostituire una firma. Perché questa cosa è importante? È importante perché la firma è aggiunta appunto spesso alle mail cifrate, spesso anche non cifrate, cioè si aggiunge la firma anche su mail in chiaro, essenzialmente per garantire l'autenticità del messaggio. Quindi, se io posso cambiare arbitrariamente la firma, tendenzialmente posso impattare su un livello di fiducia della persona che legge, facendogli apparire quel messaggio firmato, e quindi tendenzialmente una cosa di cui mi posso fidare, mentre invece quel messaggio in origine firmato non era. E questo è diciamo abbastanza interessante. Infatti questo bug di nuovo diciamo, ha fatto un po' scalpore, meno di quell'altro, ma è comunque un problema che ha tenuto banco in questi giorni. E diciamo, il problema è uscito un paio di giorni fa, quindi è una notizia abbastanza fresca. I dettagli magari non sto a spiegarli come l'altra volta, essenzialmente perché riguardano una sono anche più semplici da spiegare forse degli altri, adesso che riguardano un problema legato alla gestione, cioè alla possibilità di inserire un parametro file name all'interno della comunicazione fatta con diciamo, le comunicazioni realizzate dallo standard OpenPGP, e in questo file name sostanzialmente è un parametro arbitrario che io posso inserire come voglio. E in questo modo, almeno nella versione quella più semplice che dimostra qui, posso sostanzialmente aggiungere una firma a un messaggio che firmato non era, e con questo sistema ingannare quindi il potenziale lettore di quel messaggio e anche i vari client che si utilizzano per leggere. Quindi anche se lo fate a linea di comando, lui dimostra come per i fail una dei consigli che davano dall'Electronic Frontier Foundation dicevano appunto: leggete le mail decifrandole a mano, cioè senza passare dall'aiuto di un programma grafico. Enigmail è sostanzialmente un plugin per Thunderbird, quindi è qualcosa che permette di integrare questo standard all'interno di un client di posta grafico. Normalmente la gente fa così. Loro dicevano: rinunciate a questa cosa, fatelo a linea di comando. Lui ha dimostrato però che è possibile anche a linea di comando riuscire a un pochino a circuire l'utente costruendo questa cosa in modo che sia molto molto molto molto simile a un messaggio, a una firma originale, per cui l'utente non nota veramente differenza. È più elaborato il suo modo di gestire il testo, quindi più utilizza anche a linea di comando dei terminali elaborati, e più questa cosa è fattibile. Con i dettagli tecnici mi fermo qua, considerato che avevo detto che non ne parlavo proprio, poi mi è scappato, però sul podcast metterò un po' di dettagli. Ora vi lascio un altro pochino di musica. Quest'oggi abbiamo aperto con un album di Jimmy Castor. Jimmy Castor non sapete magari chi, ma ve lo ricordate senz'altro perché ha firmato uno dei pezzi della colonna sonora di Flashdance, e in particolare quello in cui c'era la scena dove c'erano i breaker che ballavano per la strada, e questo lo dico per gli appassionati, ha in realtà reso abbastanza famoso il breaking anche nel circuito mainstream, per chi gliene frega qualcosa. A me interessa perché sono appassionato, e quindi ve lo dico come sfoggio di cultura generale, per far vedere che non so solo di queste cose qua, di cui ne so poco, perché in realtà le leggo tutte, voi non lo sapete, ma io qua davanti c'ho proprio le cose da leggere per non dimenticarmelo, e invece del breaking sono appassionato, però non è questa la trasmissione giusta, ma io provo a infilarcelo sempre e comunque. Quindi un altro pochino di musica, intanto mi preparo la seconda notizia, che vi anticipo sarà di nuovo una roba di hacking internazionale, e quindi andiamo di nuovo ad approfittare per spiegare di nuovo qualche termine e come funzionano i rapporti tra le grosse nazioni e come esse si sfidano sull'agone dell'internet. Thank you. Sono un pochino di musica perché le notizie sono tante, se no poi vado lunghissimo di nuovo. E non che sia un problema, in realtà è solo per non annoiarvi più del necessario. E la prossima cosa di cui volevo parlare è una notizia che ci permette di spiegare un nuovo termine, che è watering hole. Trattasi appunto di un tipo di attacco abbastanza interessante, nel senso che l'idea alla base è piuttosto se semplice ma efficace. Si tratta di prendere di mira un'infrastruttura di solito webbosa, cioè un'infrastruttura che in qualche modo ha dei siti governativi o comunque dei siti importanti o comunque è un'infrastruttura utilizzata da un target di persone di mio interesse, di mio interesse nel senso dell'attaccante, e l'idea è quella di diciamo bucare, hackerare quel tipo di struttura per fare in modo che poi i contenuti di quella struttura rimandino a delle vulnerabilità, delle falle, ecco, che riguardano i client che la visitano. Quindi l'idea è quella, tipo se io so che una struttura tendenzialmente utilizzata da degli ingegneri nucleari, al posto di andare ad attaccare direttamente gli ingegneri nucleari, che magari non so neanche chi sono, ma so che utilizzano quel tipo di struttura, io bucherò quel tipo di struttura e poi da lì cercherò di condurre degli attacchi, principalmente di solito sono attacchi che riguardano i browser, quindi cose che voi vedete sul web, ecco, tenterò di condurre degli attacchi atti a acquisire ulteriori privilegi sulle macchine di queste persone. Quindi l'idea è quella, parto ad esempio, in questo caso qua che vi illustro, che la Kaspersky ha denominato Lucky Mouse. E loro hanno attaccato una non meglio specificata, perché nel comunicato non si specifica quale, però un data center molto grosso di una regione asiatica, un data center pare governativo, sostanzialmente instillando dentro questo data center, quindi bucandolo, quindi introducendosi all'interno dei contenuti che poi i siti che stavano in questo data center mostravano ai browser, ai client che lo utilizzavano, sfruttando, diciamo, degli attacchi poi più classici, cioè nel momento in cui io sono il fornitore di un certo contenuto, posso darti dei contenuti sani, ma anche dei contenuti un po' malevoli e maliziosi, e in generale, siccome tu ti fidi del fatto che magari hai fatto un login e tutto ti appare normale, no? E magari stai andando a leggere, che ne so, un bug tracker o stai cliccando sul link che dai per scontato che sia sano, che non sia un link malevolo, è perché la fonte da cui lo prendi è una fonte sicura. Ecco, in questo modo sostanzialmente loro andavano a cercare di sfruttare diciamo, questa buona fede data dalla fiducia che uno ripone nel sito legittimo, andavano a sfruttare questo attacco cercando di instillare dentro i browser che lo visitavano tutta una serie di ammennicoli. Questi ammennicoli, alcuni di questi è interessante perché sono anche oggetti, diciamo, di pubblico dominio. Ad esempio questo gruppo, di cui poi magari dopo vi dico meglio, perché è un gruppo che Kaspersky riferisce alla Cina e chiama in maniera diversa a seconda delle operazioni, ma ricorre negli anni, ecco, è un gruppo, diciamo, che loro riferiscono a un'infrastruttura stabile. cinese, quello che viene chiamato un Advanced Persistent Threat, cioè una struttura fatta per portare attacchi su internet stabile, quindi che li porta avanti negli anni. Infatti, se riguardate un po' indietro, ricercando un po' dei nomi che dopo vi dirò, trovate notizie che vanno magari dal 2010, dal 2013, 2014 in avanti, dove si ricorrono questi nomi. E appunto questi tool che vengono utilizzati, almeno alcuni di questi, sono di pubblico dominio, li potete anche vedere voi, poi vi metto il link nel podcast. Uno in particolare si chiama BIF, Browser Exploitation Framework, è un tool che potete trovare anche nelle distro Linux se avete mai utilizzato una Kali o queste distribuzioni fatte per fare penetration test. Infatti è un tool appunto per condurre penetration test. E diciamo, qual è lo scopo di questi tool? Appunto, lo scopo di questi tool è quello di interagire con un visitatore di un sito in maniera anche automatica, ma volendo anche live, cioè io posso, mentre tu stai visitando il sito, farti apparire delle cose in virtù del fatto che appunto in quel sito sono io che vi dico i contenuti, e quindi posso decidere via via che cosa farti vedere, perché tu passi comunque da me. Normalmente questa cosa viene fatta con del codice JavaScript malevolo infilato dentro le pagine web che visitate. E BIF appunto è un tool che automatizza questa roba, per cui vi può far apparire ad esempio dei pop-up, che ne so, di login su Facebook, dei pop-up di scaricami questo, che ne so, per visitare questo sito c'è bisogno di scaricare la nuova versione di Flash Player. Ti appare un'iconcina che è fatta, è veramente uguale a quella del Flash Player, te ci clicchi sulla fiducia per installartelo. In realtà in questo modo ti stai magari installando un programma atto a controllare il tuo computer. Loro ad esempio utilizzavano questo Hyperblow che viene appunto categorizzato dalla Kaspersky nel proprio report come un remote access Trojan, cioè un oggetto che ti permette poi di controllare il computer dell'utente che sta utilizzando il browser. Questo se ci caschi, certamente. È possibile anche fare cose meno radicali, tipo però ad esempio rubarti un login facendoti apparire una finestra di login, che ne so, su Facebook. Tu fai il login, poi magari io ti rimando veramente su Facebook, però intanto prima mi salvo da qualche parte tutto quello che tu hai scritto, quindi username e password. Questa cosa si può ripetere su qualsiasi software di cui io conosco le fattezze e dal quale ci si logga via web, quindi con l'utilizzo molto molto frequente che si fa attualmente del web, anche per loggarsi su infrastrutture diciamo di una certa rilevanza, è comunque un problema notevole questo. Tanto più che appunto queste infrastrutture magari sono protette da altri livelli di autenticazione, no? Per cui io mi fido perché magari penso che sto visitando quel sito venendo da una VPN, quindi da un canale sicuro, cioè io sono lì perché posso essere lì e quello che è lì è sicuro. Però se invece quello lì sicuro non è e io redirigo la mia comunicazione, carico nella pagina degli elementi che vengono anche da altre parti del web che sono elementi malevoli, ecco, non mi posso più fidare di questa cosa. Per chiarire, l'ho ripetuto magari 50 volte, ma è meglio chiarirlo molto bene. Per aver fatto questo io devo aver prima un certo controllo sul fornitore del contenuto. Quindi a priori devo avere appunto hackerato, bucato delle parti del data center in questo caso, e quindi c'è un lavoro a priori che però questi della Kaspersky non sono riusciti ad individuare precisamente, cioè non si sa qual è il vettore iniziale di questo attacco. Si sa che però da questo data center sicuramente venivano forniti dei contenuti malevoli. Un'altra delle cose che negli anni questo gruppo ha utilizzato è anche una roba che si chiama Scambox, che è un framework anche questo piuttosto vetusto, però interessante perché c'è anche un modulo che permette di fare da keylogger, cioè tutto quello che accade dentro il sito che state visitando può essere loggato. Quindi se io dentro quel sito poi vado a scrivere anche dei contenuti confidenziali, proprio perché magari è un sito che mantiene contenuti confidenziali, questi vengono presi e spediti direttamente a questi signori di Lucky Mouse. Vi dicevo appunto del nome Lucky Mouse, che in realtà sembra soltanto uno degli ultimi nomi di questo gruppo, che negli anni è stato diciamo additato in maniere diverse. Si parla anche di Iron Tiger, oppure di questo nome bellissimo che è Emissary Panda, oppure il più famoso, che è APT27. Questo APT27 è appunto famoso perché si riferisce proprio, di solito quando si parla di APT27 si parla appunto di questa infrastruttura legata in qualche modo al governo cinese. E un altro nome che utilizzano anche è Threat Group 3390. Questi sono nomi appunto dati probabilmente dagli studiosi, dalla Kaspersky o da chi per loro, che ogni volta diciamo tentano di identificare, alcune volte con dei nomi più di fantasia, che magari prendono da pezzi del codice, da commenti o cose simili. Altre volte li pigliano categorizzandoli appunto da una porta utilizzata o da qualche altro dettaglio. Comunque la Kaspersky dice che questa roba, per quanto sia attribuibile, loro l'attribuiscono appunto a un attaccante di lingua cinese, e la riferiscono anche per il modus operandi a tutte queste altre operazioni precedenti, e quindi alla fin fine la attribuiscono al governo cinese. È appunto interessante come appunto gli stati, nazioni, anche quelli molto, molto grossi, soprattutto quelli molto grossi, operino sul agone dell'internet come fossero, diciamo, in una specie di arena di spionaggio e controspionaggio, e operano appunto in deroga a qualsiasi forma di normativa internazionale, no? Nel senso che non serve dichiarare guerra a uno Stato per fare questo tipo di operazioni. E molto spesso infatti queste operazioni sono mischiate a operazioni di quella che viene più banalmente detta criminalità comune. Ad esempio questo stesso gruppo pare fosse, almeno così dicono quelli della Kaspersky, fosse uno di quelli che utilizzavano i malware JavaScript per fare mining di Bitcoin con i computer delle vittime. Quindi in questo caso io utilizzo lo stesso meccanismo, diciamo, di attacco cosiddetto watering hole, però questa volta quello che faccio non è per carpire informazioni, magari anche quello, per carità, ma è per utilizzare i computer per minare Bitcoin, cioè per aumentare la mia potenza di calcolo, quindi per farmi anche due soldini. E questo, diciamo, è quanto. Anche qui vi lascio magari qualche link poi per chi vuole approfondire. Spero che la spiegazione non sia stata troppo tecnica, ho buttato lì dei nomi a caso, ma credo che il concetto più o meno si sia capito. E quindi un altro pochino di musica, e poi continuiamo con la prossima notiziola dal mondo dell'internet. Yeah, well, in actuality, I did grow up with Frankie, Sherman, Herman, Joe, and Jimmy. They later became known as Frankie Lyman and the Teenagers. You know, they were the first supergroup, at least in my opinion. We were kids when I wrote this for them. Promise to be true. Promise to be true. Promise to be true. I Promise to Be True canta Jimmy Castor in questo pezzo, e chissà se ci si può fidare di lui. Senz'altro non ci si può fidare dell'internet, a quanto sembra, e vi invito appunto a diffidare dell'internet. E il prossimo argomento sarà un nuovo bug scoperto nei processori dell'Intel. Questo si riferisce a una roba stramba che si chiama Lazy FP State Restore. Di nuovo se ne è parlato parecchio nei mesi scorsi di questa serie di bug chiamati Spectre e Meltdown. Ci sono state varie trasmissioni dedicate, io ne ho parlato il giusto, ma più diffusamente ne hanno parlato anche altre trasmissioni mie amiche, e in particolare al limite vi rimando, magari poi vi metto il link se lo ritrovo, a quelle di Radio Onda Rossa o a quella di Torino, di Radio Blackout, che ne aveva parlato, me lo ricordo perché ero ospite anche io quando se ne parlava. Ecco, si riparla di nuovo quindi di bug di processori. In questo caso si tratta di nuovo di cose legate all'ottimizzazione, cioè al tentativo dei processori di rendere, diciamo, l'elaborazione più performante, perché l'esperienza dell'utente sia anche più piacevole, no? Nell'estrema esigenza di elaborare contenuti sempre più grossi, multimediali, eccetera, una delle cose più fastidiose per l'utente è la lentezza del computer. E quindi i creatori dei processori, non potendo più lavorare perché esiste un limite fisico a quanto si può spingere questa roba, iniziano a lavorare parecchio sulle ottimizzazioni. Se non che spesso, infilando queste ottimizzazioni, si aprono delle falle di sicurezza, e questa è appunto una nuova falla di questo tipo, che dice potenzialmente potrebbe permettere di accedere a dei dati rilevanti, anche informazioni legate alla crittografia, quindi a chiavi o comunque a informazioni che normalmente sul disco starebbero cifrate, ma che quando vengono richiamate in memoria non lo sono più. E questo nuovo bug, che è poi simile a quegli altri, appunto permetterebbe di sfruttare alcune attività del processore per accedere a informazioni a cui di solito non potrei avere accesso, se non ci fosse appunto un utilizzo malevolo del mio computer. E questo bug, c'è da dire che ha creato molto meno panico degli altri due. C'è infatti una lunga lista di robe che non sono interessate da questo attacco. In particolare è la Red Hat che si occupa di questa ricerca, quanto mi è riuscito di capire, anche se non sono sicurissimo. Poi magari questo ve lo guardate da soli se volete sapere da chi ha origine questo bug, ma sì, mi sembra proprio che sia stata la Red Hat. Appunto, c'è una lunga lista di cose che non sono vulnerabili, ad esempio tutti i processori AMD non lo sono, che è un'altra marca produttrice di processori, non sono tante, quindi si fa in fretta a vedere. E poi molte versioni dei sistemi operativi non lo sono, anche se il processore lo sarebbe, quindi vuol dire che a livello del kernel loro non permettono di sfruttare questo bug del processore, perché appunto si pongono come uno strato intermedio tra voi e l'hardware. E in particolare praticamente c'è scritto che soltanto se utilizzate roba precedente al 2016, precedente alla versione 4.9 del kernel di Linux, se potreste essere vulnerabili. Di nuovo, ancora le versioni moderne di Windows pare non lo siano, e così pure versioni di OpenBSD e di altri BSD non lo sono. Insomma, c'è un lungo elenco di roba che non è vulnerabile, quindi in questo senso questo bug è meno interessante dal punto di vista dell'attaccante, è però significativo che comunque questi bug a mesi di distanza uno dall'altro continuino ancora ad uscire, quindi vuol dire che probabilmente l'hardware che noi utilizziamo di per sé contiene ancora diversi problemi, e la ricerca a proposito non è neanche così semplice, perché appunto più si scende di livello e più è complicato anche riuscire a sviscerare le problematiche, è anche molto complicato appunto anche riuscire poi a sfruttarle le problematiche. Se però ci poniamo nell'ottica di un attaccante con mezzi ampi, come potrebbe essere la National Security Agency o appunto un governo cinese, cioè governi che hanno a disposizione strutture, mezzi, soldi, eccetera, si capisce bene che non c'è troppo da stare allegri da questo punto di vista. Ora vi metto un altro pochino di musica e mi preparo invece per la prossima tornata di chiacchiere, che questa volta sarà una roba, visto che vi ho abbastanza appestato con cose tecniche, volevo iniziare a parlare invece di una cosa che ci sarà a luglio a Genova, nel secondo weekend di luglio a Genova. Ora vi dico le date precise per non sbagliarle subito, quindi ve le dico dopo, e ci sarà appunto l'Hack Meeting, ci sarà questo incontro della comunità hacker italiana, almeno di una parte, e come ogni anno si configura come un evento autogestito. Quest'anno è ospitato dal centro sociale Buridda di Genova, e stranamente, perché di solito le cose arrivano sempre all'ultimo, invece quest'anno c'è già una fitta sequenza di workshop e seminari e di proposte, per cui pensavo che man mano che ci avviciniamo, come preparazione anche, ogni volta ve ne leggo 4-5, li commentiamo assieme, così fate la bocca a quello che potreste vedere appunto a Genova nella seconda settimana di luglio. Ora un altro po' di musica e poi andiamo nel vivo della questione. Nel frattempo, anche se non ve ne siete accorti perché il ritmo è rimasto decisamente funkeggiante, abbiamo abbandonato Jimmy Castor Bunch e ci siamo avviati ad ascoltare invece The Matters. Non ve ne fregherà niente, però io ve lo dico perché così si fa alla radio se sei un bravo speaker e DJ. E io aspiro a diventarlo per voi, mio pubblico. Vi dicevo del programma dell'Hack Meeting. Allora, l'Hack Meeting sarà precisamente, ora ricerco le date prima di sbagliare, dal 6 all'8 luglio di quest'anno a Genova. Il programma, vi dicevo, appunto nella lista, che è una lista pubblica a cui potete leggere e iscrivervi se siete interessati, si chiama Hack Meeting, sul sito dell'Hack Meeting, che è www.hackmeeting.org, trovate i dettagli per iscrivervi alla lista, oltre a tutte le cose relative a come arrivare, i contatti, la storia, la cartellina stampa se siete dei giornalisti, non lo so, comunque ci saranno poi tutte queste cose. C'è anche un link programma Il programma non è ancora nella griglia, cioè non si sa precisamente ancora cosa sarà cosa, ci si sta lavorando in questi giorni, però sono arrivate varie proposte che vengono qui accumulate. Io vi leggo le prime 5 e poi andiamo avanti così anche nelle prossime settimane, ma magari man mano che ci si avvicina ritornerò magari su alcune proposte per spiegarle meglio, o magari ne leggo più di 5, perché se diventano tante, 5 alla volta, no, magari non ci si arriva alla meeting leggendole tutte, non lo so, cioè che quest'anno siamo partiti così in pompa, non si sa che si va a finire. E allora, la prima proposta le leggo proprio in ordine, così come sono riportate sul sito, quindi non per ordine di importanza o diciamo per qualche altra caratteristica di merito. Le leggo semplicemente come sono arrivate. La prima è CTP, consulenze tecniche, uno studio sugli algoritmi di cell reselection. Ora spiego, perché non vi spaventate, c'è anche un abstract che vi spiega di che stiamo parlando, ve lo leggo. Partendo da un caso giudiziario reale, indagheremo come un'accusa interpreta i dati dei tabulati telefonici. Guarderemo le carte, gli strumenti utilizzati e i documenti prodotti. È possibile che una scritta sul muro sia un'attività così pericolosa da richiedere i tabulati di tutte le comunicazioni telefoniche di un'intera città? Cosa registrano i tabulati telefonici? Il vostro cellulare a cosa si collega? E in base a quali algoritmi e normative? E questa era la spiegazione sostanzialmente di cell reselection e selection, cioè sarebbe sostanzialmente come il vostro cellulare, quando lo attaccate, seleziona quale cella utilizzare, come si stacca da una, ne riseleziona un'altra, e i dati che passa durante questo attacco-stacco e durante, diciamo, la permanenza online, che per la maggior parte dei cellulari è di 24 ore su 24. Quindi è una roba interessante, anche perché appunto viene vista dal punto di vista di ciò che di tutti questi dati arriva poi nei tribunali. Secondo talk proposto è costruire una calcolatrice con i bicchieri d'acqua. Bomba questo. Vado a leggervi di cosa si tratta. Questo sarà la calcolatrice più low tech che abbiate mai visto. Grazie ai prodigi del sistema binario faremo una calcolatrice in grado di sommare tra loro due numeri, disponendo solo di una ventina di bicchieri e di una bottiglia per riempirli all'occorrenza. Se avremo abbastanza bicchieri, proseguiremo poi anche con le sottrazioni e le moltiplicazioni. Seminario per veri nerd. Attenzione, prerequisiti: 1. Saper contare fino a 2. 2. Saper bere un bicchiere d'acqua. E questo è la seconda proposta giunta. Altro seminario, criptocose. Esistono delle primitive crittografiche alle quali non avete pensato, ma che potrebbero migliorare la privacy delle vostre infrastrutture autogestite? Questo intervento sarà diviso in due, prendendo dei casi d'uso classici. Durante la seconda parte mi piacerebbe invece trovare insieme degli esempi di utilizzo più vicino alla vostra vita. Idealmente mi piacerebbe capire se è possibile migliorare il modello di rischio della vostra infrastruttura autogestita. Più esempi nel thread. Che il thread penso sarà riferito appunto a quello della lista Hack Meeting, quindi se volete, non potete aspettare, volete assolutamente sapere di cosa si parlerà, leggetevi il thread sugli archivi della lista Hack Meeting, e per trovarlo visitate il sito www.hackmeeting.org oppure hackmeeting.org e basta, tanto poi ve lo metto nei link sul podcast. E siamo al terzo seminarietto, ora altri due e poi abbiamo chiuso e torniamo a un altro po' di musichina. GenDrop, un generatore di rumore bianco digitale. Quante volte abbiamo bisogno di numeri casuali, sia per delle simulazioni che per le generazioni di chiavi crittografiche, e quante volte ci chiediamo quanto siano veramente casuali e non solo pseudo i numeri generati dai nostri computer con chiamate a funzioni tipo RAND o accesso a device tipo DevRandom? Quante volte? Io qualche volta me lo sono chiesto, ora non so se voi ve lo chiedete in continuazione, però se ve lo chiedete sappiate che abbiate un problema, e forse dovreste venire ad Hack Meeting, perché lì c'è tanta altra gente che ha problemi simili al vostro. Scopo del talk è illustrare come costruirsi un GenDrop, ovvero un circuitino elettronico di facile realizzazione da usare come child per Arduino e trasformarlo in un generatore di white noise bitstream da collegare con un cavo USB al nostro computer. Bomba! Verranno illustrati schema elettronico, prototipo su 1000 fori, codice C Arduino per acquisire e trasmettere il rumore, esempio di codice C Linux per salvare il rumore su file, alcuni test per valutare la qualità del rumore generato. fortissimo questo, mi ha dato via anche il fiato, cioè beh, è bello proprio questo. La tragedia delle open cose. Spunto, e questo era il quinto, poi chiudiamo, non specificate, finché sono andato dritto si poteva non capire, no, questo è il quinto seminario, la tragedia delle open cose. Spunto di riflessione a partire da vari casi contemporanei di come il capitalismo digitale ha portato in pochi anni la pratica dell'open, anche free, da forma di opposizione alla proprietà intellettuale a giardino dell'Eden dell'estrazione di valore. Grandi multinazionali, tra cui Google, rilasciano software in open source e free, sapendo così di poter contare su una miriade di sviluppatori distribuiti per il globo che gli fanno il lavoro sporco. I dati, ancora più se in contenitori open, diventano miniera per machine learning e statistica, il cui risultato non è possibile dimostrare dipendere dai dati originali, come era possibile in parte fare in caso di licenze Creative Commons non commerciale. E questo pezzo non l'ho capito tanto, lo rileggo e poi magari ve lo spiego, non lo so, se no ve lo andate a rileggere e vedete se voi capite. E mentre negli anni 2000 i movimenti contro la proprietà digitale tifavano condivisione, ora questa parola è diventata l'imperativo del digicapitalismo. In tale contesto vale la pena fermarsi un attimo, ragionare su cosa si stia facendo e come ripensare le forme di lotta digitale e non. Questo è difficile, questo è un intervento di senso complicato, anche corretto, nel senso che non dice cose non condivisibili, anzi, è vero che appunto se le multinazionali hanno così tanto abbracciato lo sviluppo a codice aperto, qualche motivo ce lo devono avere, di solito non sono infatti degli enti caritatevoli e altruisti, e quindi anche questo qua è interessante, appunto perché Hack Meeting si configura per essere sia un luogo di condivisione e sviluppo di sapere tecnico, ma anche di critica su quel medesimo sapere, che altrimenti non sarebbe un luogo interessante, ecco. Cioè, nel senso che di sapere tecnico tirato a caso c'è pieno il mondo, lo vediamo bene, non avrebbe senso fare un altro incontro dove ci troviamo a parlare sempre nei termini in cui la tecnologia è approcciata dal mondo, diciamo, dei media mainstream. Con questo chiudiamo l'inizio di questa mini retrospettiva sui seminari che ci saranno ad Hack Meeting. Ve ne ho letti 5 dei 17-18 proposti finora, altri 5 o più saranno per il prossimo lunedì. Ora vi lascio un altro po' di musichina e poi penso i saluti e me ne torno anch'io nella mia vita silenziosa e ritirata monastica che conduco normalmente, a parte quando parlo qui ai microfoni di Radio Wombat. My baby, Lord have mercy. And I'm going back for number two, cause I just killed my baby. And I feel so darn great, just can't wait, just kiss my baby. Power is on my side. chiudiamo questa puntata con una notizia che ho letto ora, fresca, ve la riporto perché mi ha interessato, volevo solo salutarvi ma poi mi è caduto l'occhio e quindi visto che ci sono tanto parlo. E questa è una cosa che riguarda il sistema operativo della Apple, Mac OS X, è interessante perché di nuovo parla di fughe dei nostri dati cifrati dai propri container cifrati, cioè il ricercatore che ha trovato questo problema ha indagato una feature che si chiama Quick Look, che sostanzialmente serve appunto a velocizzare la visualizzazione di file, cartelle, eccetera, tenendone una cache in modo da non doversi di ogni volta riproporre un contenuto che era già stato visitato in precedenza. In particolare questa genera delle thumbnails piccoline per ogni file, in modo che voi ve le vedete piccoline lì, prima di cliccarci sopra potete vedere che cos'è. Ecco, una cosa comodissima, fighissima, non fosse altro che sostanzialmente anche i container cifrati, e loro, lui ne ha provati due, ha provato cioè a creare un container cifrato con VeraCrypt e poi un altro cifrato con direttamente le utility di Mac OS X, ci ha salvato dentro due immagini e poi dando un semplice comando che ora non vi sto a dire qual è, però lo potete, diciamo, vi link poi magari il post dove l'ho trovato, ha ritrovato queste foto in un percorso non cifrato. Quindi queste foto che risiedevano all'interno di un file system cifrato vengono salvate poi completamente in chiaro dal sistema operativo in un luogo non cifrato che è utilizzato appunto come cache. E quindi niente, ve lo dico perché è interessante questa cosa, perché spesso appunto anche tutti questi stratagemmi di crittografia che hanno comunque una solida base magari matematica alle spalle sono poi vanificati da delle sviste, come abbiamo visto per NewPG o per tutte le cose di cui vi parlo in continuazione, non ve le sto a rivangare tutte quante. E comunque è interessante questa roba perché appunto fa capire bene come spesso si possono aggirare dei meccanismi anche molto, molto sicuri, nati come molto sicuri, con delle cavolate, dei ragionamenti semplici che non richiedono poi alla fine neanche troppo skill tecnico. Ecco, magari una forma mentis atta a cercare l'inghippo. Con questa cosa vi saluto, vi do appuntamento al prossimo lunedì, vi lascio alla consueta programmazione di repliche bobina di Radio Wombat, almeno fino alla prossima diretta, e niente, una buona serata a tutte e a tutti. Io me ne vado da questo luogo di sofferenza dove sì, è vero, un ventilatore e un fornelletto per evitare che le zanzare mi uccidano, ma comunque non è che si sta veramente poi così tanto bene, se non fosse altro che appunto sono vittima di questa febbre radiofonica che mi porta a avere necessità fisica di fare i DJ almeno una volta a settimana. Un saluto a tutta e a tutti, come ho detto, vi lascio con un po' di musica, chiudo, preparo il podcast e vado a morirmene in qualche altra zona, spero più fresca, di questi luoghi.